Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Ultimo appuntamento estivo con il cacciatore di libri della domenica. Abbiamo deciso un po' di chiudere come avevamo iniziato, sia con uno degli scrittori più amati dagli italiani, Andrea Camilleri. Devo dire, è stata una delle grandi richieste di voi ascoltatori. Come sapete, ogni anno a maggio gli appassionati di Camilleri hanno un appuntamento fisso, cioè quello con il nuovo romanzo Montalbano. L'ultimo si intitola La rete di protezione ed è pubblicato, come tutti gli altri, da Sellerio. In questo romanzo Montalbano indaga parallelamente su due case. Allora, uno potremmo definirlo un cold case, quasi un caso vintage. A Vigata si sta girando una fiction ambientata negli anni 50 e la produzione invita gli abitanti a cercare vecchie foto e filmini. E così un ingegnere di Vigata, del paese, trova alcune pellicole, alcuni filmini che erano stati girati dal padre anno dopo anno, però sempre nello stesso giorno, il 27 marzo, dal 58 al 63. In tutti questi filmati si vede sempre solo un muro. E Montalbano naturalmente è incuriosito da questi strani filmati. Nello stesso tempo, e questo è il caso parallelo, in una scuola media vengono esplosi alcuni colpi di pistola. In questa nuova avventura Montalbano dovrà fare i conti con internet e con i social network. Insomma, era ormai necessario far entrare web e social nella vita di Montalbano? Sentiamo che cosa ci ha risposto Andrea Camilleri. Ma sì, perché è arrivato a un certo momento, resisti, fino a quando poi sono loro più forti, diventano una necessità. Nel caso specifico poi l'indagine di Montalbano, per forza di cose, deve occuparsi anche dei social, di tutto quello che si vuole, perché sono i mezzi di comunicazione dei giovani, dei ragazzi di oggi. E siccome la faccenda si svolge anche tra i ragazzi di oggi, Montalbano non può fare altro che, a denti stretti, adeguarsi. Ha a che fare con i ragazzi di oggi, anche perché, diciamo, in una parte della trama vediamo che ci sono degli uomini diciamo armati che entrano in questa scuola media. Questa scuola, sì. Ecco, ed esplodono alcuni colpi di pistola. Naturalmente non sveliamo il perché e il per come, ma possiamo dire che c'è una parte ambientata ai giorni nostri, appunto, con questi ragazzini, e una parte invece di quelli che si chiamano cold case, i casi freddi, no? Cioè una parte, sì, che va al passato. Come mai? Sì. Ma Montalbano ha sempre avuto questa inclinazione del caso freddo, cioè già a cominciare dal Cane di Terracotta, che è il secondo romanzo di Montalbano, lui preferisce quasi abbandonare l'inchiesta che è in corso per dedicarsi a un delitto o qualcosa di misterioso accaduto addirittura 40 anni prima. Cioè lui praticamente sarebbe un ideale indagatore, appunto, di questi casi considerati morti, considerati chiusi. Gli piace più ripercorrere il passato che avere a che fare col presente. Ma questa nostalgia per il passato è solo di Montalbano e anche di Camilleri, colui che lo scrive? No, Camilleri non ha nessuna nostalgia del passato. È una cosa che riguarda semplicemente ed esclusivamente il suo personaggio. Ecco, Montalbano invece come se la cava con le nuove tecnologie e come se la cava anche il suo autore? Ma sa, io con le nuove tecnologie non me la cavo, nel senso che non ce l'ho. Io ho un computer, quando ci vedevo, ora non ci vedo più e quindi anche esso è inutile. Ma non ho mai avuto internet, cioè io ho adoperato il computer come una perfezionatissima macchina da scrivere. C'ho telefonini strabilianti con messaggi a voce, cose eccetera, e quelli li adopero per necessità. Però diciamo che prima Montalbano faceva fare tutto a Catarella, che era aveva fatto il corso di informaticcia, come definiva lui l'informatica. Ora invece è costretto, però anche in questo caso non è che agisca in prima persona, ha come intermediaria anche una bravissima collega che di queste cose è competentissima. In un'intervista che avevamo realizzato sempre per Il Cacciatore di Libri Radio 24 tempo fa, lei mi aveva raccontato che in realtà lei ha scritto una serie di romanzi Montalbano che ha già consegnato alla casa editrice Sellero e che poi la casa editrice decide quale pubblicare. Sappiamo che ogni anno a maggio ne esce uno nuovo. In questo caso, per la rete di protezione, lei si ricorda il momento in cui l'aveva scritto, come, perché, come era nata quell'idea? È indimenticabile, perché questo libro è stato scritto prima del libro l'altra parte, l'altro capo del filo, no? Che invece è stato questo, pubblicato prima. Sì, ed è il primo libro che io ho dovuto affrontare come scrittura in necessità, diciamo, quindi dettandolo, sperimentando un nuovo modo di raccontare e tenendo il più possibile a freno l'oralità che mi è congenita e congeniale, tenendo presente sempre che si trattava di una scrittura. L'occasione nel caso specifico nasce proprio dal caso di 30 anni fa, cioè dal fatto di quel signore che fotografa inspiegabilmente per anni e lo stesso giorno, alla stessa ora, allo stesso mese, un pezzo di muro che non dice niente. E questo pezzo di muro che non dice niente, in realtà per me, dentro di me, era come se fossero un po' la rappresentazione di tutti i misteri dell'uomo che il povero Montalbano è costretto ad affrontare e di cui la prima rappresentazione che lui ha è come una sorta di muro. Si tratta di scoprire i segreti che ci sono dentro e oltre quel muro. In sostanza è una sorta di metafora di tutto quello che è la vita da poliziotto di Montalbano. Ecco, ma esiste veramente una persona che fotografa un muro ogni giorno dell'anno a quella stessa ora o è un'invenzione di Camilleri? Ma vorrei vedere chi non incuriosisce. È incuriosito me quando è venuto in mente. Prima mi è venuta in mente questa immagine e poi il problema è stato di cercare di scoprire a me stesso perché cavolo quell'uomo fotografava quel muro. Ecco, diciamo che potrebbe essere un'opera di arte contemporanea, mettere la stessa foto dello stesso muro. Certo, potrebbe essere bellissimo. Ecco, un'ultima domanda, Camilleri. Prima ha detto che questo è stato il primo romanzo che lei ha scritto con problemi di vista, quindi l'ha dovuto fare dettando appunto le cose che voleva raccontare. Questo aver cambiato, volente o nolente, insomma, il metodo di scrittura, secondo lei sta cambiando anche il suo approccio alla scrittura delle storie, Montalbano e no, oppure no, rimane identica? No, francamente no, perché si tratta di una felice combinazione, cioè la persona alla quale è detto non è semplicemente una che sta sotto dettatura, è Valentina, cioè la mia collaboratrice che ho da 15 anni e che parla e scrive il vigatese meglio di me. Quindi quando io ho detto, in realtà dialogo con Valentina in vigatese. E questo era Andrea Camilleri che ci ha parlato dell'ultimo romanzo Montalbano, La rete di protezione, pubblicato da Sellerio. Ora sentiamo un breve estratto da questo romanzo. La storia era principiata 4 o 5 mesi avanti, quando che Televigata aveva invitato i suoi ascoltatori a cercare in casa i vecchi filmini Super 8, che erano stati tanto di moda intorno alla metà del secolo passato, e a mandarli in redazione. Ci avrebbero poi fatto una trasmissione, una specie di come eravamo e di come si presentava il paese negli anni 50. Va a sapere per chi e va a sapere per come l'iniziativa aveva avuto un successo clamoroso. Forse a scascione del fatto che la cosa era diventata un motivo di divertimento per la gente che se la scialava a vedere le trasformazioni che il tempo aveva fatto a loro stessi o ai loro figli, quando erano ancora nicareggi. Picciriddi che parevano beddi come angileggi scinnuti a loro lura d'ucelo, si erano stracangiati in uomini anziani, sdentati, malatizi, senza capiti, e femmine che erano state la luce del paese, ora erano vecchiaredde che potevano mettersi a fare la quasetta. Poi, appresso, si era scoperto che tutto il suo mutuperio in realtà aveva uno scopo preciso. Tutto il materiale doveva servire come traccia a una truppe televisiva che sarebbe venuta in paese per fare quella che oggi si chiama una fiction. Si chiude qui dunque questa puntata, l'ultima puntata della Domenica del Cacciatore di Libri, che è andato appunto in onda in versione estiva. Dal prossimo fine settimana ritornerà la normale programmazione, quindi il Cacciatore di Libri non sarà più in onda la domenica, ma solo ed esclusivamente il sabato alle 6.30 e alle 22. Naturalmente rimane sempre il podcast su radio24.it. Grazie in regia a Roberta Frisani, una buona lettura da Alessandra Tedesco.